Capitolo 4. Sir James sembra deciso a fare tutto quel che vuoi, disse Celia mentre si stavano recando a casa in carrozza dopo aver ispezionato il luogo dove sarebbero sorte le nuove costruzioni. È una brava persona, è più sensata di quanto si potrebbe immaginare, disse Dorotea avventatamente. Vuoi dire che sembra stupido? No, no, disse Dorotea, riprendendo il controllo di sé e posando per un attimo la mano su quella della sorella. Ma non parla di tutti gli argomenti con la stessa padronanza. Direi che solo le persone antipatiche lo fanno, Celia disse col suo fare da gattina. Deve essere terribile viverci assieme. Ma pensa, a colazione e sempre. Dorotea scoppiò in una risata. Oh, Kitty, sei una persona fantastica! Strinse il mento di Celia, ora che si sentiva portata a considerarla assai seducente e bella, degna di essere d'ora in poi e per sempre un cherubino. E se una simile affermazione non fosse stata un errore dottrinario, bisognava di redenzione, bisognosa di redenzione, non più di uno scoiattolo. Naturale che non è necessario che la gente pari sempre bene, il fatto è che la tempra della loro mente si riconosce solo quando cerca di parlare bene. Vuoi dire che Sir James cerca e non ci riesce? Stavo parlando in generale. Perché questa domanda su Sir James? Lo scopo della sua vita non è di far piacere a me. Andiamo, Dodo, lo credi proprio? Certo, mi considera come una futura sorella, è tutto. Dorotea non aveva mai accennato in precedenza, in attesa per una certa ritrosia, su tali argomenti comune alle due sorelle. Che tale discorso fosse introdotto da qualche avvenimento decisivo. Celia va un po', ma disse subito: Ti prego, non continuare a fare quello sbaglio, Dodo. Quando Tantripp mi spazzolava i capelli l'altro giorno, mi ha detto che l'uomo di Sir James aveva saputo della cameriera di Mrs. Cadwallader e che Sir James avrebbe sposato la maggiore delle Miss Brooke. Come puoi permettere a Tantripp di riferirti pettegolezzi simili, Celia? Disse Dorotea con aria indignata, non meno infuriata perché dei particolari sopiti nella memoria ora si ridestavano per confermare la sgradita rivelazione. Le deve aver fatto delle domande. È degradante. Non ci vedo alcun male nel fatto che Tantripp mi abbia parlato. È meglio sapere quello che dice la gente. Ti accorgi tu di che sbagli commetti fidandoti solo delle tue idee? Sono assolutamente certa che Sir James ha intenzione di farti la proposta ed è convinto che tu lo accetterai, soprattutto perché sei stata così soddisfatta di lui riguardo ai progetti. E anche lo zio so che se lo aspetta. Ognuno può accorgersi che Sir James è innamorato pazzo di te. Il ribrezzo fu così forte e doloroso nella mente di Dorotea che le lacrime sgorgarono e scorsero abbondanti. Tutti i suoi cari progetti erano amareggiati e pensò con disgusto al fatto che Sir James potesse aver avuto il pensiero che lei lo accettasse come proprio innamorato. Era anche crucciata nei riguardi di Celia. Cosa gli dava il diritto di aspettarselo? Esclamò con tutto l'impeto di cui era capace. Non sono mai andata d'accordo con lui su nulla tranne i cottage. Prima lo trattava a malapena con educazione. Ma poi sei stata così soddisfatta di lui e lui ha cominciato a sentirsi del tutto certo che tu gli voglia bene. Bene a lui, Celia! Come puoi scegliere delle espressioni così odiose? Esclamò Dorotea con veemenza. Dio mio, Dorotea, suppongo che sarebbe giusto voler bene a un uomo che si accetta per marito. Per me è un'offesa dire che Sir James abbia potuto pensare che gli volessi bene. E poi non è la parola giusta per il sentimento che devo provare per l'uomo che sarei disposta ad accettare come marito. Beh, mi dispiace per Sir James. Ho pensato fosse giusto dirtelo, perché continui a comportarti come sempre, senza mai badare da che parte stai e mettendoti nella posizione sbagliata. Vedi sempre quello che nessun altro vede. È impossibile essere di tuo gradimento, eppure non vedi mai ciò che è chiarissimo. È il tuo modo di fare, Dodo. Certo, qualcosa infuse a Celia un coraggio insolito e non aveva riguardo per la sorella per la quale a volte provava soggezione. Tu puoi dire quali giuste critiche il gatto Moore stia rivolgendo a noi, creature molto più speculative. È un grosso dolore, disse Dorotea sentendosi ferita. Non posso più occuparmi dei cottage. Con lui devo essere maleducata, devo dirgli che non ci voglio avere niente a che fare. È un gran dolore. Gli occhi le si colmarono nuovamente di lacrime. Aspetta un momento, pensaci. Sai che andrei via per un paio di giorni a trovare la sorella. Non ci sarà nessuno tranne Lovegood. Celia non poté fare meno di addolcirsi. Povera Dodo, proseguì con affabile e rotto accento. È assai dura. È il tuo pallino preferito fare progetti. Pallino fare progetti. Credi che mi curi solo della casa del mio prossimo in quel modo infantile? Posso benissimo commettere degli errori. Come si può fare qualcosa di altamente cristiano vivendo fra gente che nutre pensieri così meschini? Non si dissero altro. Dorotea era troppo innervosita per recuperare la calma e comportarsi in modo da mostrare che ammetteva di avere potuto commettere qualche errore. Era invece propensa ad accusare l'intollerabile grettezza e la coscienza miope della società che la circondava, e Celia non era più l'eterno cherubino, ma uno spino nella sua anima, una scettica bianca e rosa, peggiore di qualsiasi scoraggiante personaggio del viaggio del pellegrino. Il pallino di fare progetti. Cosa valeva la vita? Quale grande fede era possibile se l'effetto globale delle azioni di una persona si poteva ridurre a una simile arida scempiaggine? Quando scese dalla carrozza, le sue guance erano pallide e le palpebre arrossate. Era l'immagine della tristezza e lo zio che lei incontrò nell'ingresso si sarebbe allarmato se Celia, che le era accanto, non avesse avuto un aspetto così carino e composto. Cosicché, egli dedusse subito che le lacrime di Dorotea traevano origine dalla sua eccessiva religiosità. Aveva fatto ritorno, durante la loro assenza, da un viaggio nel capoluogo della contea per chiedere l'amnistia di un qualche delinquente. Bene, mie care, egli disse con tenerezza, mentre queste gli andavano incontro per baciarlo. Spero che non sia accaduto nulla di spiacevole durante la mia assenza. No, zio, disse Celia, siamo andate a Frechit per vedere i cottage. Pensavamo che saresti stato a casa per l'ora di pranzo. Sono passato da Lowick a pranzare. Non sapevate che passavo per Lowick. E ti ho portato un paio di pamphlet, Dorotea, nella biblioteca, lo sai. Sono sulla scrivania della biblioteca. Parve che Dorotea fosse percorsa da una corrente elettrica, facendola passare di soprassalto dalla disperazione alla speranza. Si trattava di pamphlet sui primi tempi della Chiesa. Il senso di oppressione datole da Celia, Tantripp e Sir James fu scacciato e si diresse spedita verso la biblioteca. Celia andò di sopra. Mr. Brooke fu trattenuto da un messaggio, ma quando rimise i piedi nella biblioteca trovò Dorotea seduta e già profondamente immersa in uno dei pamphlet, che a margine recava delle note manoscritte di Mr. Casaubon. Ed essa le assaporava con la stessa avidità con cui avrebbe potuto assaporare il profumo di un mazzolino appena raccolto, dopo una passeggiata che le avesse messo addosso sete, caldo e malinconia. Si allontanava da Tipton e da Freshit e dalla propria deplorevole tendenza a mettere il piede nel posto sbagliato nel cammino verso la Nuova Gerusalemme. Mr. Brooke si sedette in poltrona. Distese le gambe verso il fuoco di legna, che si era sbriciolata in una massa fantastica di blocchetti incandescenti fra gli alari, e si fregò pian piano le mani, rivolgendo a Dorotea uno sguardo assai mite, ma con aria tranquilla e indifferente, come se non avesse nulla da dire in particolare. Dorotea chiuse il pamphlet appena si accorse della presenza dello zio e si alzò come per andarsene. In un altro momento si sarebbe interessata della pietosa missione dello zio a favore del condannato, ma l'agitazione di poco prima l'aveva resa distratta. Sono tornato passando da Lowick, lo sai, disse Mr. Brooke, a quanto pare senza alcuna intenzione di trattenerla, ma evidentemente per la sua consueta tendenza a ripetere quanto aveva già detto. Mr. Brooke dava prova in modo marcato di questo principio fondamentale del discorso umano. Ho pranzato là e ho visto la biblioteca di Casaubon. Roba del genere. C'è un vento penetrante, tagliente. Non vuoi sederti, mia cara? Dai l'impressione di aver freddo. Dorotea si sentì piuttosto inclina ad accettare l'invito. Talvolta, quando si dava il caso che la noncuranza con cui lo zio prendeva le cose non fosse esasperante, questa le recava sollievo. Si tolse il mantello e il cappellino e si sedette di fronte a lui, traendo piacere dal calore, ma sollevando le belle mani per farsi schermo. Non erano mani scarne o minute, ma forti, femminili, materne. Pareva che le tenesse sollevate perché fosse esaudito il suo desiderio appassionato di sapere e di pensare, che negli ambienti ostili di Tipton e di Freshit si era manifestato in pianti e palpebre arrossate. Ora si ricordò del condannato. Che notizie ci porti sul lado di pecore, zio? Chi? Il povero Bank? Beh, sembra che non ce la facciano a farlo assolvere. Sarà impiccato. La fronte di Dorothea assunse un'espressione di condanna e di compassione. Impiccato, capisci? Fece Mr. Brooke con un composto cenno del capo. Povero Romilly. Lui ci avrebbe aiutato. Io conoscevo Romilly. Casabon non lo ha conosciuto. È un pochino immerso nei libri, sai. Casabo, dico. Quando un uomo compie grossi studi e sta scrivendo una grande opera, è naturale che debba rinunciare a vedere un sacco di gente. Come può andare in giro a fare delle conoscenze? Questo è vero, ma si va giù di morale, lo sai. Anche io sono sempre stato scapolo, ma ho un genere di temperamento per cui non mi sono mai avvilito. Il mio sistema era di andare in giro dappertutto, interessarmi di tutto. Non sono mai stato giù di morale, ma Casabò sì, lo vedi, capisci? Ha bisogno di qualcuno che gli faccia compagnia. Compagnia, capisci? Sarebbe un grande onore per chiunque fargli compagnia, disse Dorothea con veemenza. Ti piace, eh? Disse Mr. Brooke senza tradire sorpresa o altra emozione. Beh, ecco, io conosco Casabo da 10 anni, dal primo giorno che è venuto a Lowick. Ma non gli ho mai tirato fuori niente, nessuna idea, sai. Però è un uomo di prim'ordine e può darsi che diventi vescovo, una cosa del genere, capisci? Se Peel resta al governo. E ha un'ottima opinione di te, mia cara. Dorothea non riuscì ad aprire bocca. Il fatto è che ha davvero un'ottima opinione di te e parla insolitamente bene. Casabo, dico, si è rimesso a me, dato che tu non sei maggiorenne, per farla breve, gli ho promesso di parlarti, anche se gli ho detto che a mio parere non c'erano molte speranze per lui. Questo era mio dovere dirglielo. Gli ho detto, mio nipote è molto giovane e cose di questo genere, ma credo che non sia necessario riferirti tutto. Comunque, a farla breve, mi ha chiesto il permesso di proporti un'offerta di matrimonio. Di matrimonio, capisci? Fece Mr. Brooke con un cenno esplicativo del capo. Ho pensato fosse meglio dirtelo, cara. Nessuno avrebbe potuto scorgere un'ombra di agitazione nel modo di fare di Mr. Brooke, ma così desiderava davvero sapere qualcosa delle intenzioni della nipote, affinché, se ci fosse stato bisogno di consigli, egli fosse in grado di darglieli tempestivamente. Il sentimento a cui, come magistrato che si era aperto a tante idee, poteva fare posto era di schietta benevolenza. Poiché Dorothea non parlò subito, egli ripeté: Ho creduto fosse meglio dirtelo, cara. Grazie, zio, disse Dorothea con voce chiara e ferma. Sono molto grata, Mr. Casabo. Se mi farà una proposta, lo accetterò. Lo ammiro e lo onoro più di qualsiasi altro uomo che abbia mai incontrato. Mr. Brooke tacque per un po', quindi disse in tono basso ed esitante: bene. Sotto certi aspetti è un buon partito, ma ecco, anche certo a me è un buon partito. E le nostre terre sono confinanti. Non mi opporrò mai ai tuoi desideri, mia cara. La gente dovrebbe essere lasciata libera di scegliere nel matrimonio e in quel genere di cose, fino a un certo punto, capisci? Io l'ho sempre detto, fino a un certo punto. Desidero che tu faccia un buon matrimonio. Io ho dei buoni motivi per credere che Cetta abbia intenzione di sposarti. Lo dico così, capisci? È impossibile che io sposi mai Sir James Chatham, disse Dorothea. Se lui crede di sposarmi, ha fatto un grosso sbaglio. Ecco, vedi, uno non l'indovina mai. Avrei pensato che Chatham fosse proprio il genere di uomo che dovrebbe piacere a una donna, ecco. Vi prego di non fare più il suo nome a questo proposito, zio, disse Dorotea, sentendo risvegliarsi un po' dell'irritazione di prima. Mister Brooke restò meravigliato e pensò che le donne erano un soggetto inesauribile di studio, dal momento che alla propria età non era perfettamente in grado di prevedere scientificamente le loro mosse. Ecco, un tipo come Chetham, senza un minimo di speranza. Beh, ma, Casabo, andiamo. Non c'è fretta, lo dico per te. È vero, ogni anno lascerà il segno su di lui. Ha più di 45 anni, lo sai. Direi 27 anni buoni più di te. Certo, se ti piace il sapere, la buona reputazione e cose del genere, non si può aver tutto. Il suo reddito è buono, ha una cospicua proprietà libera da vincoli con la Chiesa. Il suo reddito è buono. Eppure non è giovane e io non devo nasconderti, mia cara, che credo che la sua salute non sia ottima. Non so di nient'altro che si possa dire contro di lui. Non desidererei avere un marito pressappoco della mia età, disse Dorotea con solenne risolutezza. Desidererei avere un marito superiore a me per senno, in ogni campo del sapere. Mister Brooke ripeté il suo sommesso. Ah sì? E pensavo che avessi più opinioni della maggior parte delle ragazze. Pensavo che ci tenessi alle tue opinioni. Che ci tenessi, mi capisci? Non riesco a immaginare di vivere senza delle opinioni, ma desidererei fondarle su dei buoni motivi. E una persona saggia potrebbe aiutarmi a capire quali opinioni sono meglio fondate e a vivere conformemente ad esse. Verissimo. Non ti saresti potuta esprimere meglio. Non ti saresti potuta esprimere meglio in anticipo, capisci? Ma ci sono delle stranezze nelle cose, continuò Mr. Brooke, che in coscienza si sentiva veramente impegnato a fare quanto di meglio poteva per la nipote in questo frangente. Vita non è fatta con uno stampo, non è ritagliata con una riga, una squadra e cose del genere. Io non mi sono mai sposato e questo andrà a tutto vantaggio tuo e dei tuoi. Il fatto è che non ho mai amato nessuno a sufficienza per infilare la testa in un cappio per amor suo. È un cappio, lo sai? L'indole, per esempio, c'è l'indole e un marito vuole comandare. So che devo aspettarmi delle prove dure, zio. Il matrimonio è una condizione di doveri superiori. Non l'ho mai considerato come pure semplice benessere personale, disse la povera Dorotea. Beh, non ti piacciono gli esibizionismi, una gran casa, i balli, i pranzi, le cose di quel genere. Riesco a rendermi conto che il modo di vita di Casabo ti si potrebbe confare meglio di quello di Chetham e fare come ti pare, mia cara. Non mi sarei opposta a Casabo. L'ho detto subito perché non si può mai sapere come una cosa andrà a finire. Tu non hai gli stessi gusti di ogni signorina. E un prelato, uno studioso, che può diventare vescovo, una cosa del genere, può darsi che ti si addica meglio di Chetham. Chetham è una brava persona equilibrata, lo sai, ma non analizza molto a fondo le idee. Io lo facevo quando avevo la sua età. Ma passiamo agli occhi di Casabo. Penso che se li sia rovinati un po' col troppo leggere. Sarei tanto più felice, zio, quanto più mi fosse data l'occasione di essergli di aiuto, fece Dorotea con ardore. Sei assolutamente decisa, come vedo. Beh, mia cara, il fatto è che in tasca ho una lettera per te. Mr. Brooke porse la lettera a Dorotea, ma con questa si alzò per andarsene. Egli aggiunse: Non avere troppa fretta, mia cara. Pensaci sopra, capisci? Quando Dorotea se ne fu andata, egli rifletté che aveva certamente parlato con energia, le aveva sottoposto i rischi del matrimonio in modo evidente. Era suo dovere farlo, ma quanto a pretendere di essere saggio per i giovani, nessuno zio, per quanto avesse viaggiato in gioventù, avesse assorbito le nuove idee e avesse pranzato con uomini celebri, ora morti, poteva pretendere di giudicare che genere di matrimonio sarebbe andato bene per una ragazza che preferiva Casabo a Chetham. A farla breve, la donna era un problema che, siccome la mente di Mr. Brooke si sentiva vuota davanti ad esso, non poteva certo essere meno complicato delle rotazioni di un solido irregolare. Capitolo 5. La lettera di Mr. Casabo era la seguente: Mia cara Miss Brooke, ho il permesso del vostro tutore di rivolgermi a voi su un argomento di cui nulla mi sta maggiormente a cuore. Non mi sbaglio, spero, se riconosco una qualche coincidenza più profonda di quella della data nel fatto che la consapevolezza di una necessità nella mia vita era sorta contemporaneamente alla possibilità di fare la vostra conoscenza. Infatti, durante la prima ora del nostro incontro ebbi l'impressione che voi foste supremamente e forse esclusivamente adatta a soddisfare quella necessità, legata, posso dire, a tali interessi affettivi che persino le preoccupazioni per un'opera troppo eccezionale da essere trascurata non hanno potuto dissimulare all'infinito. E ogni successiva occasione di osservarvi ha dato a quell'impressione un'intensità maggiore, convincendomi più vigorosamente di quell'idoneità di cui mi ero fatto in precedenza l'idea, e in tal modo rinfocolando con maggiore decisione quegli affetti a cui ho appena fatto cenno. Le nostre conversazioni vi hanno chiarito a sufficienza, credo, il tenore della mia vita e dei miei scopi. Un tenore non adatto, me ne rendo conto, al genere più comune di intelletti. Ma io ho scorto in voi una elevatezza di pensiero, una capacità di dedizione, che finora non avevo ritenuto compatibili né col primo fiore della giovinezza né con quelle grazie del sesso che si può dire a un tempo conquistino e conferiscano distinzione, se combinate, come lo sono in voi in modo così notevole, con le qualità intellettuali summenzionate. Non avevo, lo confesso, nessuna speranza di incontrare questa rara combinazione di elementi, sia ben fondati che attraenti, adatti a essere di ausilio fra le fatiche più gravose, riempire di fascino le ore vuote. E se non fosse stato per il caso che mi ha fatto conoscere voi, che lasciate che lo ripeta, spero non che coincida con necessità presagite in modo superficiale, ma sia connesso provvidenzialmente con esse, come stadi per il completamento del progetto di una vita. Probabilmente avrei proseguito fino alla fine senza tentare in alcun modo di alleviare la mia solitudine con un'unione matrimoniale. Questa, mia cara Miss Brooke, è l'esatta esposizione dei miei sentimenti. E faccio appello alla vostra gentile indulgenza nell'azzardarmi ora a chiedervi di quale natura siano i vostri per confermare il presentimento della mia felicità. Essere accettato da voi come sposo e guardiano terreno del vostro benessere lo considererei il più gran dono della provvidenza. In cambio, posso almeno offrirvi un affetto finora intatto e la consacrazione fedele di una vita che, per quanto breve in futuro, non ha pagine trascorse su cui, se le vogliate voltare, troverete precedenti quali potrebbero giustamente suscitare in voi amarezza o vergogna. Resto in attesa dei vostri sentimenti con un'ansia che sarebbe saggio, se fosse possibile, indirizzare a una fatica più ardua del consueto. Ma in questo genere di esperienza sono ancora giovane e nell'aspettarmi una risposta sfavorevole non posso non avvertire che la rassegnazione alla solitudine sarà più difficile dopo la temporanea illuminazione della speranza. In ogni caso, resterò il vostro con sincera devozione. Edward Casebo. Mentre leggeva la lettera, Dorothea tremava, poi cadde in ginocchio, si coprì il volto e si mise a singhiozzare. Nell'impeto di una solenne emozione, in cui i pensieri divenivano vaghi e le immagini fluttuavano incerte, essa non riuscì a pregare, ma solo a lasciarsi cadere, con la sensazione infantile di adagiarsi nel grembo di una coscienza divina che la sosteneva. Rimase in quella posizione finché non fu ora di vestirsi per la cena.